Fadi. T'as raté ton entrée. Oh merde, Fadi. Tes potes sont des vieux modèles. Oh non, pas belle. J'ai mesuré ma chance, elle est quasi vraie. Tes potes sont des vieux modèles. Oh non, pas belle. J'ai mesuré ma chance, elle est quasi vraie. Elle est quasi, elle est quasi, je crois. Ma chance, elle est quasi vraie. Dalle poesie a scuola, ero una cosa nuova. Parlavo di cosa non funziona, parlavo dei ragazzi in zona. In musica ero un genio, a religione ero serio. Preferivo ascoltare discorsi sensati, nel resto non c'era impegno. Poi Albi disse sei dei nostri, nel beatbox uno dei più grossi. In studio a fumare oggi, ero uno dei più loschi. Poi i primi freestyle, lo facevo con i miei in gara, mai volevo scrivere, sai. Alex mi disse dai vai, ehi, ora sto raggiungendo il sogno. In studio mi sento un mostro, non penso a cercare lavoro, faccio i soldi dal compra oro. Ehi, finisci nudo io lo faccio, finisci nudo io lo faccio, ti spacco tutto io lo faccio. Se dici che io mi chiamano Musti Flaca, se saluti ti lascio blacca. Vestiti firmati in tasca nada, ehi, me li hai comprati la strada. Sono più di uno nel club vestito scuro. Mi riconosci di sicuro. Incollata una tipa al cazzo duro.